Sono tre piccoli porcellini, sono tre fratellini, mai nessun li dividerà. Tra la la la la la. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. Tra la la la la la. In un tiepido mattin se ne vanno i porcellini, dimenando al sole i loro codini spensierati e birichi. Il più piccolo dei tre ad un tratto grida: ahimè, da lontano vedo il lupo arrivare, non facciamoci pigliar. Marcia indietro pallalor filando a gran velocità, mentre il lupo corre ancora, a casa sono già. Prima chiudono il porton, poi s'affacciano al balcon, perché il lupo non può prenderli più, tutti e tre gli fan cucù, cucù, cucù, cucù, cucù, cucù. Ah ah ah, che bell'affare, il lupo non potrà cenar. Sono tre piccoli porcellini, sono tre fratellini, mai nessun li dividerà. Tra la la la la la. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. Tra la la la la la. Tra la la la la la.